La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Buonasera e ben ritrovati. Quella di oggi è una prima volta che ci porta in Corea del Nord, la cui popolazione è, secondo un rapporto di Amnesty International, tra quelle che ha continuato a subire la negazione e la violazione di ogni diritto umano fondamentale. Le autorità hanno continuato ad arrestare e detenere arbitrariamente le persone senza processi o accesso a un avvocato. Inutile dire che non esiste libertà di espressione, incluso il diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni oltre i confini nazionali. È impossibile ottenere servizi di telefonia mobile internazionale e l'accesso a internet. La Corea del Nord è un paese dove la gente vive perennemente in uno stato di miseria mentre un'elite affoga nell'opulenza. Questo è a grandi linee quello di cui parleremo stasera con Chris Lee, scrittrice americana ma figlia di sudcoreani che ha vissuto e lavorato per anni al confine con la Corea del Nord, accogliendo coloro che riuscivano a fuggire, esperienze che si sono trasformate in un libro dal titolo Come siamo diventati nordcoreani. Ecco, signora Lee, la prima domanda che le faccio è proprio relativa alla Corea del Nord. Che paese è e qual è la situazione attuale? The current situation right now is I think far more fragile and difficult to predict than it has been for many years. La situazione in Corea del Nord è molto fragile per quanto riguarda i diritti umani e a guardarla si può predire come andrà avanti. Anno dopo anno abbiamo visto infatti peggiorare la situazione, con persone scomparse e fatte scomparire. Come ricorderete, ha fatto scalpore il caso del fratellastro del capo del regime di Pyongyang, che è stato di fatto ucciso dai servizi segreti nordcoreani. La situazione, il modo di risolvere le cose è questo. Ci sono poi le pressioni internazionali, ad esempio c'è la posizione cinese. Ufficialmente la Cina è alleata della Corea del Nord, però di fatto la tensione tra i due paesi è in aumento. La Cina è il principale e forse unico alleato, però Pechino oggi vive con molto disagio le ambizioni nucleari di Pyongyang, temendo che le provocazioni rafforzino il fronte costituito da Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone, perché questo avvicina l'esercito americano alla frontiera cinese. Poi c'è Trump, che sta spingendo molto forte contro la Corea del Nord, andando a toccare equilibri davvero molto fragili. E i rischi sono evidenti a tutti e sono rischi reali, molto pericolosi. Invece, per quanto riguarda la sua di storia, ci racconta come è nato il suo interesse per la Corea del Nord. Lei è nata in Corea del Sud e poi vi siete trasferiti in America, giusto? Yes, I was born there. Sì, sono nata in Corea del Sud e poi quando ero una bambina siamo arrivati negli Stati Uniti, dove sono andata a scuola. Crescendo ho cominciato a sviluppare interesse per il paese dal quale venivo e mi sono messa a studiare. Ero inizialmente interessata solo alla Corea del Sud e poi ho cominciato a studiare e interessarmi alla Corea del Nord. Ad un certo punto ho deciso di tornare in Corea del Sud per approfondire le mie ricerche. Mio padre ricordava di quando vi fu la guerra tra le due Coree e della separazione dei due stati. Molte famiglie allora vennero distrutte, separate, una parte a nord e un'altra a sud. Ed è per questo che ha scelto di scrivere il romanzo Come siamo diventati nordcoreani, cioè quando le è nata la voglia di scrivere un romanzo su questo paese? I think one doesn't choose a novel, but the novel chooses you. I was living in South Korea. Many of my friends were North Korean activists. Ho deciso di scriverlo dopo aver trascorso moltissimo tempo a lavorare come attivista per i diritti umani. Ero in Corea del Sud, ma facevo accoglienza e aiutavo coloro che riuscivano a fuggire dal nord. Anno dopo anno le loro storie e i loro volti mi sono entrati dentro. Ho sentito che era importante scrivere, dare voce alla loro situazione. All'inizio pensavo non fosse la mia storia e che non spettasse a me raccontarla. E questo nonostante avessi ormai molti amici nordcoreani. Però erano anni che vivevo in Corea del Sud e iniziavo a capire la dittatura e le conseguenze che questa ha sulle persone. Avevo provato a tornare in California e scrivere da là una storia, ma la Corea del Nord era dentro di me. Avevo passato Natali con la gente fuggita da quel paese, aiutato madri single a farcela, sostenuto amici che erano arrivati in condizioni disperate. Non avevo alternative. Dovevo scrivere questo libro anche perché conoscevo la situazione, quanto fosse complicata ed ero capace di semplificarla. Molte persone che si occupano dei diritti umani mi hanno ringraziata per questo libro. In particolare mi ha molto commossa un parlamentare di Westminster che mi ha scritto per dirmi di aver letto centinaia di articoli sulla Corea del Nord, ma che questo romanzo lo aveva fatto sentire più vicino a quella realtà. Thank you for writing this book because he had he worked on the Human Rights Committee within Parliament, but he said he had read hundreds of pages of reports and read North Korean memoirs, but he said my book was the first one that made him care and feel, and that was my goal when I wrote that book. I wanted people to care about the people in the way that I cared about them. Adesso ci fermiamo per qualche istante e torniamo davvero tra poco. La prima volta. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Ben ritrovati, l'ospite di questa sera è Chris Lee, autrice sudcoreana, residente ormai dalla prima infanzia negli Stati Uniti e dall'America, dalla California. Questa scrittrice, da adulta, ha deciso di tornare nella terra dei suoi genitori e ha deciso anche di aiutare coloro che fuggivano dalla Corea del Nord. Una storia quindi di grandi ritorni, ma anche di traumi, scoperte non certo edificanti, una storia che viene raccontata ed è raccolta nel libro Come siamo diventati nordcoreani, del quale vi facciamo sentire un estratto. Erano le 2 o forse le 4 del mattino quando finalmente attraversai il fiume. Non so, perdi la nozione del tempo quando sei terrorizzata e sai che ti ammazzeranno se verrai presa. Davanti alle cime delle montagne che si ergevano come lunghe lame smussate, la luna ci braccava mentre guadavamo mezze nude il fiume in un punto in cui l'acqua era bassa. In quel chiarore argenteo eravamo evanescenti come fantasmi. Sembrava che stessimo mutando pelle per trasformarci in qualcos'altro. L'intermediaria che era venuta con noi ci aveva avvisate. Sarà dura. Ma dura non è l'aggettivo giusto per descrivere una traversata del Tumen a inizio primavera. Il freddo mi mordeva le gambe. Ogni respiro si addensava in una piccola nube, troppo bianca, troppo visibile. Provai a non respirare. A metà del guado si udì un suono come di uno sparo. Ci buttammo in acqua. Le mie mani si alzarono per difendersi da una pallottola che non arrivò mai. Come migliaia di persone prima di me, da quando era iniziata la carestia, seguii ogni passo della nostra accompagnatrice per evitare le trappole lungo la riva e sfuggire all'occhio delle telecamere cinesi. L'unica domanda che continuavo a farmi era: ma perché non ho attraversato prima che il ghiaccio si sciogliesse? Finalmente, tremante, con addosso un freddo che non avevo mai sentito, mi arrampicai lungo l'argine fangoso e mi massaggiai le dita intorpidite delle mani e dei piedi. Fui rincuorata, quasi felice, quando vidi che c'erano ancora tutte. Cercai con gli occhi l'uomo che almeno per un po' sarebbe stato mio marito. Le sue braccia scarne, il viso color castagna, qualunque cosa pur di ridurre le proporzioni di quella terra improvvisamente troppo vasta. Ecco come si realizzò per me il sogno impossibile del passaggio all'altra riva. Signora Lee, finora abbiamo parlato in generale della situazione che si vive in Corea del Nord, ma vorrei che raccontasse anche la sua esperienza diretta. Qual è stata la più forte? Oh, how they struggle. There's so many struggles when they come to South Korea, including incredible prejudice. Vuoi sapere qual è stata l'esperienza più forte quando lavoravo all'accoglienza dei rifugiati nordcoreani? Quello a cui penso più frequentemente è la fragilità di chi arrivava. Erano persone che fuggivano dalla dittatura e che si affidavano alla prima persona che incontravano. Questo racconta una grande disperazione. Io l'ho sentita molto quando mi fu chiesto di realizzare un rifugio per chi scappava. L'ho fatto, avevo creato questo luogo, un rifugio sul confine. E lì ho visto arrivare persone stremate, prive di difesa, che si consegnavano al primo arrivato. Era come se non avessero più forza per combattere. Quello è stato davvero forte, traumatico. E ancor più traumatico è stato vedere l'indifferenza negli occhi dei sudcoreani, che sono completamente alienati da una società con fortissimo capitalismo, da un mondo del lavoro così competitivo, da impedire loro di capire che chi fugge dalla dittatura non lo fa per rubare lavoro a qualcun altro, né per disturbare, lo fa per disperazione. Signora Lee, oggi oltre a scrivere lei insegna scrittura creativa a Seoul. Le piace quello che insegna ai suoi allievi e cosa si aspetta da loro? I do very much. I think of teaching, Beh, insegnare è qualcosa di unico, perché insegnando sei il primo a continuare a imparare, a ricevere lezioni di vita, stimoli, consigli. Una delle poche cose che racconto, ciò che i miei studenti devono sapere, è che le storie ce l'hanno sotto gli occhi, che possono mettere in fiction quello che sentono come un'urgenza, che devono farlo. Ai miei studenti dico di non rinunciare alle proprie origini, di scrivere usando anche una sorta di lingua atavica. Devono sapere che scrivere è qualcosa di incredibile, potentissimo, che può cambiare il mondo. Perché per fare un film servono tantissimi soldi, ma per scrivere un libro servi solo tu, con la tua idea, la tua voglia di portarla avanti e la capacità di scrivere. Even making a movie costs so much money and there's so much potential compromise, but books, as I tell my students, you need a pen and a piece of paper, and it doesn't matter what class you come from, it doesn't matter how much or how little money you have, you can still write. And that's very powerful. Invece, per la Corea cosa si aspetta? Absolutely reunification. The division of North and South Korea is a historical tragedy. Assolutamente la riunificazione tra il nord e il sud. Ciò che sta accadendo anno dopo anno è il potenziamento del divario tra la popolazione, tra ciò che possono avere le persone che vivono a nord e quelle che vivono a sud. Si sta andando avanti da troppo tempo con questo progetto assurdo. Una cosa simile è già accaduta in Europa con le due Germanie, e però è un processo che si è giustamente concluso. Qui invece si va avanti in un clima sempre più surreale, repressivo, incredibile, mentre il resto del mondo avanza a una velocità pazzesca. La Corea del Nord invece resta un paese completamente isolato, dove le persone non hanno accesso a nulla, non hanno internet, non hanno telefoni coi quali chiamare fuori dal paese, non hanno informazione libera. La loro storia di oggi è praticamente uguale a quella di 40 anni fa. Non è però una scelta delle persone, è un'imposizione. Noi coreani, o perlomeno la maggior parte dei sudcoreani, vogliamo la riunificazione. E per finire, da se stessa cosa si aspetta? In terms of writing or in terms of life? Per quanto riguarda la mia vita da scrittrice oppure per quanto riguarda la mia vita personale? Forse è meglio se rispondo per entrambe. Allora, parto da una sensazione che ho avuto qualche giorno fa. Ero a Roma e mi guardavo intorno, vedevo tanta bellezza e pensavo ai miei genitori in America. Pensavo a me, che in fondo sono la figlia di una coppia di immigrati. In fondo si tratta di un piccolo miracolo se io sono qui in Italia a presentare il mio libro. E pensando ai miei genitori, ho deciso di scrivere un piccolo omaggio a loro due. Storie che parlano ancora una volta di mondi sommersi, di giustizia, uguaglianza, amore e poi di possibilità che diventano reali. La La prima volta termina qua. Io vi ringrazio per essere stati con noi. L'appuntamento è sempre domenica alle 23. Potete riascoltarci in podcast, potete scriverci alla prima volta a @radio24.it. Potete trovare tutti i riferimenti andando sulla pagina di Radio 24 e cercando La prima volta. Buona serata a tutti da Cristina Carpinelli.